Ok, alright. Ma spiega il giro questa roba in forno, eh? Sì, sì, sto facendo ancora il pagamento, sono ancora. Eccolo. Ci sono. Sto ancora facendo delle. Nelle transazioni, però non mi apre il telefono. Vabbè. Sono a casa. Va bene come radio? A voglia. Oggi sono andato in Piazza d'Italia, sì. Non sono venuto perché. Dai. Scusami lo sgranocchiamento dei popcorn. Dai, stamattina sono andato in Piazza d'Italia a portare la bambina che c'era la festa. E ho trovato Roberto Quadratto. E c'era il mercatino dell'usato. Ho trovato. Dai, sto microfono. Sto gelato. Vintage, anni 70, vedi un pochino. Sì, in FM già lo sai com'è, non è che cambi, va bene, in FM va bene. Lo devi provare in AM. Vai. A vedere in AM com'è. Non è male, lo sai qua. Non è male. Un SM53, un SM53 della Shure. Bancarella, gliel'ho preso da mano, niente, lo baracchino, messo al posto dell'SM58, insieme al Turner, vedi un pochino, guarda, adesso mi sono avvicinato a 15 cm. No, va bene, un distorcio, addirittura non mi sono neanche accorto che lontano o vicino, l'amplificazione ce l'ha, di lusso, va bene. Sì, ok, perfetto, dai. Costruire il capo originale? C'hai un rumorino, eh? 80 metri. 80 metri, dai, mi sto rendendo conto che va meglio anche come modulazione con amplificatore. Sì, va bene. Franco, e allora? In letargo sì. E beh, breco, cambio, non vi si? Nerose. Breco, cambio, da sorso, non ci si? Sei sempre nelle ore peggiori, quando la gente non ti può rispondere. Breco, cambio, ola. La gente pare che ne bucudino il mondo in terra, invece. E a 0000. Sorso non ci sei? Pacari dai. Entra invece che fare deficiente. Entra imbecille. E vabbè. Vuol dire che sei imbecille. E anche se entri e poi dici che stavi provando, vuol dire che sei imbecille lo stesso, perché te ne vai un altro canale e provi, poi entri. Va bene così, dai. Quindi ti conviene non entrare. Maledetto. Maledetto, indemoniato, schifoso. E ti sta bene perché ti sei comportato male, hai capito bello bene? Figlio del coso, dell'ignoto. Allora, ragazzo, vediamo un attimino se riesco a concludere. Vai tranquillo. Perché io te l'ho detto, no? Perché tra cugini non fa mai, non funziona. Tra cugini non funziona. No, già funziona, che qualcuno c'è storto. Sì, è storto di traverso, è con due teste, 8 pollici. E allora, è qua casca l'asino, e quanto metto? Non so, 25.000 euro, bastano. Mettili. Qualcuno, guarda che se poi non usufruisce ti mando l'IBAN e li metti a me. Ma questo è appena per quelli, se li raschia, ma è che... No, non li metti a me. Intanto, se poi entro un paio d'ore non... Ecco qua. No, allora faccio 30.000, dai, così se ne avanza rimane, ok? No, c'è il cuore familiare mio. Se tu prendi e metti lo stop entro 2 ore e metti il mio IBAN, li manda a me. Quindi se ne hai troppi, fai felice un amico, capito? Sì, io quello non c'è problema. Vediamo se ce la fa a prenderli, vai. Oh. Perfetto, perfetto. Prova. Poi se ti avanzano ve li mando. Una cosa che mi hai appena ciucciati. Oi. È poco aspirami. È poco aspira. Tu dai conferma e lui aspira. E allora, poi dai bonifico. Visto, sentito, dai, bonifico e tantenne, plop. Sì. Aspetta, giro sta roba in forno. Sì, va bene. Fish, fratello, fish. Buono. Ci ha già pensato la mia signora, caspita, io non è che sono buccia di lumaca, eh? Io fra un po' devo uscire a accompagnare la Gabriele ad Asia, dai. Fatto, a posto? Fatto, vediamo se l'ha accreditato l'altro, esci da qua. Perché, vabbè, però sono andato a finire. Tu sei troppo impegnato con queste cose di internet, mollale. No, sto caricando quelle che per Nicola, più che altro, deve prendere delle cose. Non voglio usare la mia, uso questa qua. Oi. Nicolas, c'hai un babbo, guarda, gli avrei dato 10 e lode. Alla tua età, con diciamo, mio padre mi avrebbe detto, compà, arrangiati. è vero, vabbè, però, guarda, non sarei da meno tu, lo so già, perché quello che hai passato tu non lo farei mai passare a tua figlia, quindi. No, assolutamente. Ti do ragione al 100%. Però sì. Vabbè, mio padre il computer non sa neanche cos'è. Poi mi avrebbe detto cos'è? A chi non hai studiato? Ignorante, proprio ignorante. Non hai studiato? Erano stati già ciaffi, fogli, e da voi non hai studiato, è ignoranza, e vai studia, e poi non hai colpa. No, io su quel fatto devo essere, mi ritengo fortunato, perché devo dire la verità, mio padre non si è mai messo in mezzo allo studio, più che altro mia madre, però... Sappi che io, arrivato a una certa età, ho detto basta, da oggi non faccio più niente, voglio lavorare, quindi non va bene, capito? Sì, eccolo qua, è arrivato, perfetto, ok, sono tranquillo. Capito, quindi, e ti do di più, sì, non erano semplici le cose, ciao testone, ciao, cuccio. Non erano semplici le cose, non è che me le regalavano ogni qualvolta io schioccavo ditta, te le facevano sospirare, però quando ti arrivavano erano felicità. Non lo facevano per il male, neanche mio padre lo faceva per il male, lo faceva perché erano altri tempi, però, ma non perché io sono Noè o tu sei Noè. Quindi però siamo a livello di 10 anni di differenza, siamo più o meno nella stessa barca. Ti dovevi arrangiare il lusso per quello che ci potevano accontentare, non ci facevano mancare niente, Nel mobile io qualsiasi cosa volevo c'era, io e mio fratello. Per i vizi te li dovevi lavorare. Per il mangiare c'era tutto, mamma io ho voglia di pronti, cioè, mamma io vorrei la moto, andati a travagli, io vorrei i jeans, vai ti travagli, babudò di famiglia non è pari vizi, quindi, e il sabato mattina, doveva alzarti presto, massimo a 8:30, perché pietre fisse, pietre per sederti a casa non ce n'erano, quindi non so se era ignoranza oppure era giusto, però se la penso come ora era giusto, se la penso prima di avere figli era ignoranza, sì. Comunque a noi massimo alle 8 eravamo in piedi, sia io che mio fratello forse è stato più viziato, perché a volte magari quando rientrava dalle feste le 10 era ancora addormentato, ma io alle 8 ero in piedi. Ma nonostante a volte, perché poi anche fidanzato e portavi la ragazza a casa, dormiva a casa e ragazza una, l'altra a galera fuori, non ne porti altre, e comunque quella che oggi è la mia moglie è la mia ragazza che è stata a casa, ma alle 8:30 eravamo svegli, pronti per uscire, non c'era questione. Ah sì, proprio sbrandati, dai, sbrandati. No, invece qua non funziona così. Caro mio, qua sei a casa di babbo, puoi dormire quanto vuoi. Ti alzi alla ora di pranzo, capito? Le nuove generazioni, così. Purtroppo io non ho mai portato la mia ragazza a casa a dormire, quindi. Non ho conosciuto questa era qua e va bene, dai. No, io sì. Però i miei hanno messo sempre le regole. La vuoi portare perché vuoi farti un futuro, io ti do l'opportunità, però devi stare alle mie condizioni fin quando sei a casa. Infatti, la mia compagna, dai, diciamo la domenica sera andava a dormire poi a casa sua durante la settimana perché doveva lavorare, poi venerdì e sabato veniva a casa. Tempo 4 mesi sono andato a convivere, ma lo facevano secondo me per educazione, per farti capire che quale cose sono così, oppure vai per gli affari tuoi. E infatti dopo un po' sono andato per gli affari miei. Sì. E va bene, però è stata una buona educazione. Buona. Nonostante l'essere severi, però a qualcuno gli sarebbe servito, che è ancora a casa della madre. E va bene, dai. Vai, riprendi. Cambiato radio, eh? Me ne sono accorto. Cambiato radio perché ti volevo sentire anche qua. Prova. Eccolo qua. Guarda un pochino. No, va bene, FM lo sai, va bene. Aspetta che... prova in AM. Eccolo qua, contentato, AM, provala. Sai che là ti sentivo meglio, forse per la colonia che ho, però non dispiace, è una modulazione medio-alta. Questa buca? Sì, è amplificata e forte, già vabbè, non è gracchiante come tu la gradisci però, eh? Lo so, in AM lo so, però in FM dovrebbe essere una schigia, eh? No, in FM va bene, ma anche in AM va bene, è che non ha medio-bassi, dai. Va bene, in AM non lo puoi pretendere, in AM non si può, in AM... è una popolazione povera, io per quello me la, diciamo, non la odio, però la snobo, perché è una popolazione povera e sì, prepotente, quello che vuoi, però ha stufato ormai, a me mi ha stufato e basta, la M, modalità Radio Maria, porca miseria, basta. Radio Maria, vai in Unifor. Hola, vediamo un pochino com'è. Guarda un pochino com'è in Unifor. 16 in 3. Aspetta che ti centro, aspetta un attimo. Anche un rumorino microfonico dentro, cioè un innesco un pochino disturbante. Guarda a vedere un po' ancora. Sì, ce l'hai. Tipo capito? Dai, devo rivedere un po' questa cosa, però alla base AMFM ci siamo. Sì, vai in FM, vai. Sì. Oh, ma perché il carro mi devono, quando passo in Unifor un po' vicino a zero qua, devo dargli una scrollata, tu lascialo, guarda, io ce l'ho a 4. No, vabbè, io a 4 non guardo, se vede, allora, vediamo un attimino, e forse sì, Allora sì, ce l'ho anche io a 4, però succede che in FM a 4, succede che, per dire, vado in Unifor Sierra Bravo e lui è a manettone, proprio manetta. Metti il microfono a 3 e lascialo così, e lui ti dà 100 watt, 450, ti dà 80-100 watt. Sì, il mic è così, sì, già ce l'ho così. Lascialo che è alla grande. Cosa c'ho in Unifor Sierra Bravo qua? È un innesco sotto quando parli. Vuol dire che ho troppa amplificazione. Ho l'amplificatore del microfono troppo alto. Quindi mi dà problemi. Devo trovare il settaggio giusto dell'amplificazione. Sì, va bene, già trovi il nesso giusto, dai, già va bene. Sì. Oggi no, però magari prossimamente riusciremo a, anche perché oggi sì, te lo dico là. Va bene. Abbaida, visto lo hai? L'hai visto? Sì, l'ho visto, ma la basetta, la sua è? No, del Turner. No, già va bene, cavolo. È accoppiato bene con la basetta del Turner. L'ha bien, aspetta che forse non devo uscire, quindi qua sì che rimango qua. Vabbè, è stato dimesso ieri, quindi a scuola non ci va oggi, cioè domani. Quindi adesso gli prendo una pizza e se la mangiano. Ça va bien, l'importante è che sia in room, my friend. Sì. E vabbè. Cosa ti vuol dire? Ti stavo dicendo che forse non c'è bisogno di fare, però adesso avevo l'idea di fare questa cosa blu, mettere qualche cosa sopra, qualcosa di rigido. Io ho questa tela, no? Questa tela delle tendine in più avanzata, che è blu cobalto, come si chiama quel blu della polizia, quel blu lì, no? Allora volevo fare una forma, che ne so, una forma non un solito quadrato o rotondo, una cosa un po' così, sulla S. E incollargli questa cosa qua, questa tenda qua, e poi mettergliela nel cielo, attaccargliela nel cielo. Aspetta, Allora aspetta, aspetta. Cosa devo aspettare? Aspetta, non fare niente con la tela, aspetta. Non faccio niente? Aspetta, aspetta. Oggi ho avuto un problema, però aspetta. Sì, aspettare, devo aspettare, tanto se... a parte mi deve venire anche l'idea di cosa comprare, di cosa fare per... non è così urgente, ti ripeto, sembra che si sia un pochino asciugato, quindi non ha più quella curva, il tetto non ha più quella curva che è accentuata, lo metto per irrigidire un pochino, ecco, però anche per fare una sorta di... Come te lo posso chiamare? Una sorta di personalizzazione, ecco. Non comprare nulla, non comprare nulla, hai zitta, non ti va a pigliare dalla pressa. No, non io ho gavifretta, io poi vedo cosa vuoi propormi tu. Aspetta, aspetta, aspetta. Al momento devo lasciare perché è pronta la cena. Se ci sei dopo ne riparliamo. Va bene, vai tranquillo, non ti preoccupare, tanto devo aspettare solo il garçon della pizzeria per dargli questi maledetti e pochi spiccioli che cazzo pochi, sta iniziando a costare la pizza, Di là a me. Garçon, garçon, cash, my friend, cash. Cash, my friend, no morning, no pizza. Sorry, pizza, cash, margherita e fish. Andave, andave, pasta e fagioli, bye bye my friend, a dopo, ciao ciao. Ehi Mara, buona buona, andave, sono qua, ciao. Ciao, ciao a tutti, a dopo, buona cena. Ciao, ciao, buona carica a te e al tuo Correa.